Bella estate, racconti dell'Italia in vacanza, di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Ma che bello, questo non l'avevo mai sentito, questo passaggio della nostra sigla. Poi un giorno vi spiegherò che sigla è, viene da un paese molto freddo, la Finlandia. Oggi invece siamo ancora qui in Italia, siamo alla bella estate, Tommaso Labranca al microfono, di fronte a me c'è l'Anti Labranca. Da oggi, una volta alla settimana, appena possibile, avrò in studio un ospite che sarà il mio contrario. Per esempio, io ho una certa età e naturalmente cominciamo con uno che ha una piccola età. Ho con me Luca Rossi, buongiorno. Ciao Tommaso. Ciao Luca. Luca è giovanissimo, è dell'87, però pur essendo già così giovane ha scritto un libro, si chiama Over, un romanzo edito da Excelsior 1881, ma non è qui per questo motivo, è qui perché deve insultarmi, perché secondo lui io sono troppo vecchio. È capitato proprio nella puntata in cui parleremo di libri, ma non nella maniera classica, i libri legati alle vacanze. Che libri leggete durante le vacanze, ma soprattutto quali libri non leggete durante le vacanze, perché non ci sono soltanto i libri, non è vero? Beh, ci sono anche i fumetti, i fotoromanzi, come mi dicevi prima. Ecco, lui ride. Quando io dico che quando avevo 15 anni, 14 anni, c'era la mia amica Giusy che mi passava i fotoromanzi nei pomeriggi che non finivano mai, lui ride. Eppure il fotoromanzo è fondamentale perché ti insegna una certa struttura della storia che oggi si chiama fiction. È la stessa cosa della fiction in televisione. Però erano questi fotoromanzi storici. Sai come si chiamava la casa editrice? No. No, non sa niente. Si chiamava Lancio, casa editrice Lancio. E c'erano questi divi tipo Franco Gasparri, Franco Dani, Catiuscia, c'era Claudia Rivelli che è la sorella di? Non lo so, non sa niente, ma cosa, che vita fate ragazzi? Ma non lo so, è la sorella di Ornella Muti. Ah, ah ecco, niente, non hanno entusiasmo, non lo so, c'è stata anche una canzone tempo fa, sai, dedicata proprio alla vita da fotoromanzi, chi la cantava? Non sai neanche quello? No. Io lo caccio via subito. Senti, magari la riconosci, sentila. Questo amore è una camera grande, è un palazzo che brucia in città. Non la riconosci? Adesso mi sfugge il nome, però. Mi sfugge, no? Orietta Berti? No. Marisa Sacchetto nemmeno. Magari Gianna Nannini? Ah, guarda, non lo so. Gianna Nannini cantava Fotoromanza qualche anno fa. E chi aveva fatto il video di Fotoromanza? Se non lo so, cosa? Ma non ti devi prepararti, l'aveva fatto Michelangelo Antonioni, mica Pizzefichi. Non mi hai detto che parlavamo di fotoromanzi. Sì. Parlavamo di cultura. Non ho grande esperienza in materia. Non hai grande esperienza in materia. Fortuna che abbiamo una persona che ci risolleverà. Pronto? Pronto? Barbara Alberti. Ah, sarei io? Sì. Buongiorno Tommaso Labranca. Buongiorno, mi aiuti per favore, perché vede... No, senta, io che sono più vecchia di lei, mi ricordo dei fotoromanzi che leggeva la mia nonna fantasmagorica, sdraiata enorme su questo letto, con capelli bianchi, lunghi fino ai piedi, ed erano i fotoromanzi più antichi, Grand Hotel, dove addirittura copiavano con un effetto fotografico perfetto i grandi divi. Quindi tu avevi Gary Cooper, avevi Ava Gardner, e a casa tua con poche lire, ed erano bellissimi. Bellissima, comunque, questa cosa. Come? No, dico, è una cosa bellissima. Ma il ragazzo Luca Rossi è veramente un giovanilista? No, non è giovanilista, lui è giovane. Giovane va bene, non è un delitto. Giovanilista è un guaio, ci sono rimasti fregati tutti, non so, i grandi futuristi, Majakowski che diceva i vecchi ammazzarli tutti. Poi quando ha compiuto 30 anni, infatti, poi a 30... Luca, tu non vuoi ammazzarci, vero? No. No, sei buono. No, anche perché purtroppo non sono immuni, quando compieranno poi 32 anni verrà un colpo, ecco. Infatti, ecco, intanto che noi parliamo con Barbara Alberti, che ricordo conduce su Radio 24 La Guardiana del Faro tutte le domeniche alle 9 del mattino, ecco, voglio invitarvi, voi siete sempre così pronti a rispondere, 800 24 00 24, che lettori estivi siete? Preferite Proust o il fotoromanzo, che oggi non c'è più, quindi diciamo, preferite Proust o il giornale di gossip, il giornale enigmistico? Non abbiate vergogna, non abbiate paura. È vero, Barbara Alberti, non bisogna avere vergogna di quello che si fa nella propria vita. Lei d'altronde ha appena pubblicato un libro in cui dice: non abbiate vergogna delle rughe. No, sì, no, ho detto, cioè, donne, attenzione donne, ci stanno levando tutto, se ci levano anche le vecchiaie siamo fritte, cioè, in questo senso, no? Non è, c'è questa grande rimozione appunto sulla vecchiaia. Ora, nessuno è entusiasta di invecchiare, tutta la mitologia e la religione si, e le religioni si fondano sul fatto che tutti vorremmo essere eternamente belli ed eternamente e immortali. Dato che però non è vero, allora, così da sfrontati avventurieri, giochiamo con le carte che abbiamo in mano. Comunque, se posso dire una cosa sulle letture estive? Sì, ma anzi, vogliamo sapere proprio anche che libri leggeva e legge lei d'estate. Dunque, guardi, intanto non credo affatto nel libro divertente, cioè nel libro per disimpegno, perché per me un libro brutto è come essere chiuso con un cretino in una stanza che parla sempre lui. Voglio dire, io se è una bellissima immagine. Se devo leggere un libro che è occupazione abusiva del suolo mentale, ma io passeggio zufolando, non ho nessuna idea, nessuna retorica sulla funzione salvifica della lettura a tutti i costi, ma ci sono mille altre cose più divertenti da fare. Ma è vero. Certo, sono inimitabili le stati della mia infanzia, della mia gioventù, della mia adolescenza, quando avevamo questo rapporto non c'era niente, non c'erano mica telefonini, internet, non c'era niente, eravamo come nell'Ottocento e avevamo questo rapporto acrobatico, perché ci mettevano i libri proibiti in alto, no? Lady Chatterley in alto, anche, non so, London diviso, per esempio, Martin Eden in alto, in basso il London canino, e noi dovevamo guadagnarcelo così, con la scala, uno sulle spalle dell'altro. Addirittura. Certi ceffoni sull'orecchio quando ci prendevano. Oggi tutti i genitori dicono al figlio: leggi, leggi, ma che leggi, leggi, proibiteglieli, probabilmente ci sarà una grande... Però è cambiato, Barbara Alberti, è cambiato anche un certo atteggiamento. Io quando ero giovane, le medie, e se uno veniva scoperto con un giallo Mondadori in mano, la professoressa lo insultava. Oggi se leggi i giallisti sei esaltato, e quella è la letteratura di riferimento. Quindi tutto cambia nel mondo, cambia nella vita, no? Sì, tutto cambia, però mi ricordo che la mia generazione si è sciroppata dei classici straordinari, che ci ha dato poi, e questo ci ha dato una grande confidenza con essi, capito cosa voglio dire? Ancora oggi eravamo vergini, non sapevamo neanche che esistesse la bibliografia critica, eravamo il primo lettore sulla terra, ed eravamo anche, senza sapere, luterani in letteratura, perché non avremmo tollerato intermediari fra noi e la fiamma. Eravamo noi e la scrittura soli nel creato, mi ricordo, non so, le confessioni di un italiano, ma noi parlavamo, proibito, proibitissimo, certo. Noi parlavamo di Carlino, della Pisano, come di vicini, di parenti, ci azzuffavamo sulle preferenze, è inutile che poi a scuola ci infinocchiavano, ci presentavano come il massimo romanziere dell'Ottocento, non so, i Manzoni che promessi sposi, come diceva Pasternak, non di lui, ma inferocito dalle cancellature, anzi no, se non sbaglio, lo diceva Majakowski di Pasternak. Comunque, come diceva prima, che a volte è meglio farsi una zufolata che leggere un libro, noi vogliamo anche lanciare l'ignoranza Pride, perché è anche giusto essere orgogliosi di essere ignoranti. Ascoltate sia tu Luca e sia Barbara Alberti, ascoltate questo passaggio di una delle massime pensatrici della cultura italiana. Comunque, tornando a noi, tu sei più doc o più dop? Non sei preparata? Non sono andata a scuola! Ma cioè, come ti ritieni? Ho fatto Fughino. Allora, doc è di origine controllata. Ma poi piacerebbe sapere è di origine dove andavo protetta. Io quando non andavo a scuola e facevo Fughino. Allora, vero? Se tu lo dici, io sì. Vado via. Ecco, allora, poi sono andate veramente, le hanno portate via, più che sono andate via. Le avete riconosciute? No, chi è? Vanna Marchi? E Vanna Marchi, certo, Vanna Marchi con la figlia Stefania Marchi, che dice: io non sono andata a scuola. Ecco, invece c'è molta gente in giro che, pur non essendo andata a scuola, finge di avere una cultura strepitosa perché compra due bestseller. Ma i bestseller bisogna anche leggerli, vero? Parla con me o parla con il giovane? Parlo, in realtà mi interrogo da solo, ma voglio una risposta da voi a questo punto. Ma guardi, i bestseller bisogna starci molto attenti, nel senso che spesso sono delle fregature bestiali. Poi, dato che non ci si può fidare neanche di questo, però, perché a volte ci sono i bestseller, non so, Canale Mussolini di Antonio Pennacchi è un capolavoro della lingua italiana che ti lascia sbalordito, ed è una grande, è come Faulkner, però fa ridere, cioè, ecco. Non so come dire. E non abbiamo citato Pennacchi a caso, stasera viene assegnato il premio Strega 2011, non sappiamo ancora chi vincerà, tant'è vero che poi vi racconterò anche qualcosa al proposito. Barbara Alberti, vincere un premio e avere la famosa fascetta sulla copertina serve o no? Ma serve non lo so cosa serve, serve forse a vendere, non lo so. No, dico proprio serve a vendere, uno scrive anche per vendere, cioè a questo punto diciamocelo tutto. Infatti, magari perché c'è legna per l'inverno, tanto gli scrittori hanno solo problema, comprarsi il tempo per scrivere degli altri libri. Infatti, per cui se uno vende il libro precedente può scrivere l'altro. No, anche questo sono delle gran fregature. Nel caso di Pennacchi, appunto, invece hanno contribuito a diffondere un libro, cioè secondo me una pagina di Pennacchi al giorno leva lo psicanalista di torno. Beh, questa è una frase bellissima. Allora, tra tutti i libri che ne ha scritti tanti di Barbara Alberti, posso permettermi di consegnarne uno che a me è piaciuto tanto e che non si trova quasi più, che è Delirio. L'estrema gioventù, grazie. Sì. Ah, Delirio per me è un libro bellissimo, di qualche anno fa, diciamo. Tu l'hai letto, Luca, Delirio? Bacco, di più di 30 anni fa. No, non del 79. Del 79. 78. Vabbè, allora non c'era, scusiamolo in questo modo. Non erano nati neanche i genitori di Luca. No. C'erano. Barbara Berti, grazie. Hai questa storia di sesso forsennato in cui tu credi che loro siano due adolescenti in collegio, sì, e quando scappano ti rendi conto che sono due vecchi di 80 anni e che stavano in un ricovero di vecchi. Bah, è anche bellissimo Delirio proprio per il modo in cui è scritto. Vabbè. La ringrazio molto e le dirò una cosa, posso dire una cosa personale? Che prego. Ho capito per due anni, raccontato come lei ben sa, da questo vecchio che pensa solo, che poi crediamo un giovane, ma che pensa solo al suo sesso, e lì mi è venuta tanta compassione dei maschi e tanta comprensione. Ho capito che dannazione sia per voi questo il dramma dell'erezione. Va bene, ci sono i bambini in ascolto. Luca, ringraziamo la signora Alberti, grazie. A presto, prima che ci chiudano tutto. Grazie Barbara Alberti, grande grazie come voi. Sempre. Luca, cancelliamo gli ultimi secondi, dimmi una cosa, quindi tu fotoromanzi niente? No. Gialli? Gialli sì. Che giallo hai letto? Gialli Mondadori che giravano per casa. Ah, ma tu hai la faccia di uno che leggeva I Piccoli Brividi? Io sì, li ho letti. Ecco, figuriamoci. Poi ne parliamo, adesso c'è Marco da Torino. Marco. Ciao, strepitosa la Barbara Alberti, meravigliosa. Purtroppo bisogna sempre fermarla prima che si arrivi all'ultimo velo di pudore. Leggo che tu dici che non... Leggo che tu dici che non è possibile scegliere tra Proust e i fotoromanzi, sono due estremi. Beh sì, l'estate credo che sia il momento giusto per buttarsi a leggere quello che uno trova, non dico per la strada ma quasi sul comodino. Io quest'anno per cominciare mi butterò sull'ultimo libro di Fabio Garzero, che è un autore sconosciuto di Varazze, che scrive le Italie ambientate a Varazze, una leggerezza veramente strepitosa, molto bravo. Come si chiama? Poi, ci ripeti il cognome, per favore? Garzero. E scrive gialli di una collana per un editore che pubblica gialli ambientati in Liguria, e qui il suo particolare ambientato a Varazze, il terzo suo libro dopo L'uomo delle 15:30, dei bei gialli ambientati fra Varazze e Genova, quindi tipicamente estivi, no? Certo, senti, non voglio farti un terzo grado culturale, intellettuale, tu mi sembri una persona colta, tu hai mai letto Provolino? Dunque, no. Provolino chi era già? Non era un personaggio... Va bene, buongiorno, grazie. Grazie Marco. Chi non conosce Provolino non può parlare con me. Provolino, conoscete Provolino? Vi ricordate chi era Provolino? 800 24 00 24. Luca, tu sì. Provolino niente, eh? No. No, ma chi conosci? Soldino? Soldino sì. Chi è Soldino? Uno, due. La nonna di Soldino si chiamava... Mamma mia, ma peggio di un concorrente del vecchio Mike, nonna Belarda si chiamava, nonna Belarda. Ti faccio sentire adesso una clip molto divertente, ascoltala. Si rifà una bella votazione democratica su questo folgore di poligastro, d'accordo? Tu voti a favore, però naturalmente non se ne parla nemmeno. Tutti intorno a me, e che sono? Non li voglio vedere questi puntacci bassi, via subito. Ciao, tutti intorno a me, chi un lecco a me e contro di me, è chiaro? E allora sei contenta, l'hai avuto questo premio. Se tanto lottato con gli amici per fartela avere, ma se lottato volentieri ti confondere. Chi è che parla? Niente, un punto di domanda enorme ho di fronte a me oggi. Questo è Vittorio Gassman nel film I Mostri, in cui fa una bella presa in giro di Maria Bellonci, la ideatrice, l'inventrice del premio Strega. Tant'è vero, se tu vedi lui, cioè Gassman vestito da donna, tu te lo ricordi Gassman? Sì. Il papà, non il figlio? Sì. Ecco, e non si sa mai, voi giovani conoscete soltanto i figli di... Beh, Gassman aveva questa corporatura da pugile e con questo tubino nero faceva molto ridere, la collana di perle. E allora faceva questa bella votazione democratica su una lavagna esattamente come quella che usano gli amici della domenica. Chi sono gli amici della domenica? niente, perso tutto, grazie. Gli amici della domenica sono coloro che si incontrano per decidere chi sono i finalisti del premio Strega. Conosci il premio Strega? Sì. L'hai vinto? No. Vorresti vincerlo? No. Perché no? No, perché tendenzialmente quelli che l'hanno vinto recentemente non mi sono molto piaciuti. Dimmi chi è uno che l'ha vinto recentemente. Pennacchi. E non ti è piaciuto? Non molto. Vabbè, comunque mi aspettavo una risposta del tipo no, non lo voglio vincere perché sono astemio. Beh, è stata già qualcosa di meglio. Guarda, allora, ieri sera c'è stato un incontro a Roma in cui hanno preso parte alcuni personaggi legati al primo Strega, anche tra cui una vincitrice come Melania Mazzucco, che vinse con Vita nel 2003, oppure Gian Arturo Ferrari, che è una divinità nel campo letterario. Jacopo Mattano è andato a questo incontro in cui è stato presentato proprio un'iniziativa del Sole 24 Ore. Da domani, insieme al Sole 24 Ore, saranno distribuiti, naturalmente a pagamento a parte, dei libri che hanno vinto il primo Strega. Si comincia con Il Gattopardo. L'hai letto, Il Gattopardo? Sì. Ti è piaciuto? Quello sì. Perché ti è piaciuto? Per l'ambientazione, per i lampadari. No, non per i lampadari. Non so, quello per... sarebbe piaciuto piacere a te. Per i lampadari. Infatti, a me piaceva per i lampadari. Io l'ho letto 5 volte e ho fatto mia una frase di quel libro. Quando il principe di Salina dice: non vale la pena vivere in una casa di cui si conoscono tutte le stanze. Io in casa ho uno sgabuzzino in cui non vado mai, perché sennò dico questa casa non vale la pena essere vissuta. Senti queste interviste che ha fatto Jacopo Mattano, brevissime, a Gian Arturo Ferrari e Melania Mazzucco. È vero che d'estate si vendono più libri che d'inverno? Non lo sappiamo. Quello che sappiamo, per esempio, è che nel trimestre di Natale ci sono più acquisti, più libri acquistati che libri letti. Quindi è possibile che d'estate ci siano più libri letti che libri acquistati. Senta, sul tipo di letture che si fanno d'estate, è vero che si fanno delle letture meno impegnate, magari che mettono a riposo l'intelletto? No, non è vero questo. È vero che d'estate leggono delle persone le quali non leggono abitualmente durante l'anno. Il problema, vede, della lettura non è il problema della quantità, ma della costanza, della continuità. Per lei l'estate è un periodo in cui mette, diciamo, a riposo sia la scrittura che quindi il suo lavoro e magari si dedica più alla lettura, oppure invece è un momento proficuo? Considerando l'estate da giugno a settembre, diciamo che in una prima parte vado in vacanza e questo vuol dire che leggo tantissimo. Ancora non mi sono convertita al lettore digitale, quindi la mia valigia è composta essenzialmente dal costume da bagno, l'asciugamano, gli occhialini per nuotare e i libri, basta. Non c'è nient'altro, quindi di solito è un periodo di grandi letture, leggo un libro al giorno praticamente. Poi di solito luglio-agosto lavoro, sto a Roma e lavoro e quindi magari leggo di meno perché scrivo e quindi nel periodo in cui scrivo leggo le cose mie, diciamo. E poi settembre ricomincio a leggere e spesso mi aggiorno sulle cose che avrei voluto leggere prima, le uscite dell'anno. Comunque di solito sì, l'estate è un periodo di letture. C'è chi dice una strega, tanto lei se ne frega. Certo, io cercavo una canzone sul premio Strega, non esiste. L'unica cosa che ho trovato è stata La Strega di Vasco Rossi. Chiedo scusa a tutti gli intellettuali che ci stanno seguendo. Tu leggi un libro al giorno, Luca? Quando ero piccolo leggevo di più, ne leggevo anche 2 o 3 al giorno. Sì, ma di quante pagine? 3 pagine? Cos'hanno i cartonati? No, 100 pagine, però sono come i fotoromanzi che tu parlavi prima. Cioè, c'erano un sacco di immagini? No, erano libri molto scritti molto in grande, erano per adolescenti, barra per adolescenti, per cui potevi leggerne anche 2 o 3 al giorno. Saranno gli stessi che legge magari la Mazzucco, perché uno al giorno. Abbiamo una telefonata, pronto? Sì, pronto, ciao. Francesca? No, Sandro. Sì, sono Sandro. Sandro. Ciao. Cosa devi dirmi? No, io ho chiamato prima di tutto perché ho sentito, si parlava di letture estive invernali. Io sono un lettore che, a dire la verità, leggo tutto l'anno, ecco. Leggo parecchio e leggo soprattutto libri, diciamo, di storia. Sì, storia sovietica, storia che... quale storia? Allora, in questo momento, visto che stiamo festeggiando il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, mi sono buttato molto sui libri che parlano del Risorgimento. Ah. In maniera però, diciamo, più revisionista, nel senso, ecco, ora sul comodino ho il libro di Giordano Bruno Guerri, Il Sangue del Sud. Tua moglie ti ha già lasciato a questo punto, però penso. Guarda, siamo in trattativa, non me immagino, lei sta leggendo Zaffon, per esempio. Ah, che coppia. Per me, guarda, infatti, io non so nemmeno, quando ho visto Zaffon ho detto, ma chi è questo? Ma come non sa chi è Zaffon? Anche mia sorella mi ha rifatto nuovo per questa cosa qui. E il negro Zaffon che sa ballare il Bayon, sì, penso sarà lui, non trovo. Senti, ma tu conoscevi comunque, al di là di tutta questa fede risorgimentale, Provolino? Sì, certo, oh. È per questo che ho chiamato. Infatti la cosa che il perno era della telefonata era questo, che io conoscevo Provolino. E quando prima hai detto, ma come non conosci Provolino, qualcuno che chiami, mi sono subito fatta avanti. Ho detto, va bene, chiamo ecco. Io. Allora, abbiamo qui Luca Rossi, che è dell'87. Nell'87 Provolino era già stato riesumato, ormai era morto da molti anni. Spiega in due parole chi era Provolino. Allora, Provolino, a parte che io lo conoscevo, di lo persona? Conoscevo nel fumetto. Ah, no. Dunque, Raffaele Pisu, mi ricordo che ha creato Provolino. Esatto, era lui, sì. Era Raffaele Pisu che aveva creato questo pupazzo, si chiama Provolino perché prendeva spunto dai Provos, che erano questi, una specie di black bloc di molti anni fa olandesi, e quindi era un contestatore questo bambino, urlava sempre e avevano fatto anche dei fumetti. Sì, ecco, infatti. Ecco. Sei contento Luca adesso che sai questa storia? Sì, ma me lo sarei andato a cercare su Wikipedia a casa. Ecco, Wikipedia, va bene, grazie Sandro. Prego, ciao. E buon risorgimento. Ciao. Francesca. Ciao, ti chiamo da Bologna. Ma anch'io... anche se non me l'avessi detto l'avrei capito dall'accento comunque. Anch'io chiamo per Provolino, però... Qualcuno chiami per Proust, però, scusa. No, cercavi chi ha letto Provolino. No, va bene Provolino, dai. Però tu hai letto Geppo? E il diavolo buono. Scusa, ma mi stai offendendo. Geppo, il diavolo buono. Gatto Felix, Popeye, Soldino, Trottolino. Ecco, lei li conosce tutti. Adesso io voglio far partire una petizione da questo momento, per Felix favore. Felix lo conoscevo anch'io. Felix quale, il gatto? Sì. Come mai? Scusa, adesso mi fai paura. Adesso cioè, ho delle lacune, ma qualche cosa ho conosciuto anch'io nel senso. Mi fai paura. E tira e molla? Tira e molla, sì. Francesca, tu tira e molla l'hai mai letto? Era quello nero, no? Era tutto nero. Esatto, quello rosso. Elastico. Quello elastico. Esatto. Col berretto rosso con la M. Mi meraviglia, cioè Luca sta facendo... Ho delle lacune in materia, però qualche cosa so. Ma non è che sei collegato con lo smartphone da qualche parte? No, l'ho spento. Francesca, grazie intanto. Sì, niente, ciao. Ciao, ciao. Beh, a questo punto dobbiamo fare una cosa, Luca. Dobbiamo scrivere una lettera, una petizione, alle edizioni Adelphi, perché facciano una raccolta di quelle belle da 150 euro a volume, con dentro tutto Provolino. Cioè hanno fatto libri terrificanti, tutto Simenon. Perché non anche rifare Provolino? Tu lo compreresti? Sì. Ma lo leggeresti anche? Non lo so, beh, la Delphi va comprato per me essere messo in libreria. Certo, non per essere letto. E cosa diceva Provolino? Qual era la sua frase tipica? Uno, due, non lo so. Boccaccia mia, stati zitta. Borsa, ci sentiamo dopo. La bella estate. Numero 10, Sunshine Reggae, Laid Back. Numero 9, Nell'aria, Marcella Bella. Aria, ti respiro ancora, sa, nell'aria, ti scaccio ma ci sei, voglia, tanta voglia dentro me, una febbre che mi assale, io mi sento così male. Numero 8, Amore disperato, Nada. Numero 7, You Don't Have to Say You Love Me, Wall Street Crash. Numero 6, Do You Really Want to Hurt Me, Culture Club. Numero 5, Billie Jean, Michael Jackson. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one. Numero 4, Juliet, Robin Gibb. Numero 3, I Like Chopin, Gazebo. Numero 2, Vamos alla playa, Righeira. Numero 1, Spiagge, Renato Zero. Spiagge. Basta. È una delle peggiori canzoni mai composte, non da Renato Zero, ma dal genere umano, Spiagge. Come poteva essere al numero 1 nel 1983, non si sa. C'era Gazebo, c'era i Wall Street Crash che non ricorda più nessuno. Marcella Bella con Nell'aria, la conosci Nell'aria? Sì. Cantala. L'ho sentita prima. E vabbè, non sa neanche cantare, vabbè. Era l'83, la hit parade dell'83, perché nel 1983 il premio Strega entrò, diciamo, la direzione passò alla Fondazione Bellonci, quindi abbiamo scelto quell'anno. Una cosa molto semplice e molto facile da spiegare. Volevo farti una domanda, posso? Te ne vorrei fare una io invece. Va bene, sta cominciando a tirar sulla testa. Dai, sentiamo, che domanda è? Perché tu prima mi hai attaccato dicendo che non conosci i fotoromanzi e così. Perché io credo che ognuno, bene o male, abbia il suo alveo. E io, il suo alveo? Sì. È anche un ragazzo colto. Avanti. Perché io quando ero piccolo, mentre tu leggevi i fotoromanzi, leggevi Piccoli Brividi. E appunto sono questi libri che se ne potevano leggere anche dai 2, ai 3, ai 4 al giorno, perché erano molto veloci e molto Quando tu leggevi Piccoli Brividi, saranno stati gli anni 90. 94. Ecco, era il periodo in cui frequentavo e conoscevo i Cannibali, gli scrittori Cannibali, te li ricordi? Eri un attimo più grande, poi... ma appena appena. Poi qualcuno è diventato vegetariano e uno ha vinto anche il premio Strega, ma dimentichiamo quello che è stato, basta, non ci interessa più. Beh, abbiamo i piccoli brividi non li conosci? Ma ti sembra che ho perso il tempo a leggere i piccoli brividi, devo fare un sacco di cose, telefonate. Guarda, abbiamo una telefonata in linea. Angela Lombardo, pronto? Ciao, ciao Tommaso. Ciao Angela. Angela Lombardo è una famosa editor della varia Rizzoli, vero? Sì. Non ridere, è vero, sei una famosa editor della varia Rizzoli. Angela, siamo qui a parlare di libri estivi. Tu sei un'esperta di libri e quindi puoi anche dirci, rispondere alla domanda che magari sia io che Luca poi mettiamo in pratica, così diventiamo ricchi e famosi. Come si fa a scrivere un libro che poi diventa un bestseller estivo che tutte le signore leggono in spiaggia? Attenzione, questa è veramente una bella domanda. Eh beh, se lo sapessi l'avrei già fatto io, rispondi. Sì, ecco. Sì. Ma quali sono le caratteristiche che deve avere un libro? Beh, guarda, allora, spesso i libri che vengono letti d'estate sono in realtà dei libri molto cupi. Come cupi? Quindi mi sono sempre fatta l'idea che sono un po' rinfrescanti, cioè sono dei gialli, anche un po' svedesi. Quindi secondo me uno è lì sotto l'ombrellone. No, toglimi una curiosità, ma i gialli svedesi vanno montati seguendo le istruzioni, arrivano nella scatola piatta? No, però me lo sono sempre domandato. C'è anche quel divertimento lì, se ecco. Noi sotto l'ombrellone puoi sempre... impiegare comunque quella mezz'oretta a montare la copertina, sbagli, chiedi aiuto al vicino, è anche un modo Beh, ma è per rinfrescarsi soprattutto. Per socializzare sotto l'ombrellone. Sì. Dice il mio ospite oggi, Luca, che serve anche per rinfrescarsi questa attività. In più, secondo me, è molto rinfrescante, perché tu ti identifichi con un protagonista che così trema dal freddo, nella steppa, sotto le nevi, e tu... comunque è come mangiare un ghiacciolo, ecco. No, e quindi invece d'estate vanno di moda i gialli ambientati che sono in Mozambico, giusto per compensare d'inverno. Invece, secondo me, sì, chi va in montagna, per esempio, dovrebbe leggere assolutamente i gialli di Michael Smith con la Madame Ramos, ambientati in Botswana, così c'è anche un attimo di compensazione. Scusa, c'è Luca che sta leggendo e sta ridendo perché ha sentito dire Botswana. Vabbè, Angela, resta in linea con noi perché c'è un ascoltatore che deve dirmi qualcosa. Se anche voi avete da dirci qualcosa su Provolino, 800 24 0024. Anna Maria. Ciao Tommaso. Ciao. Eccomi. Beh, Provolino avete già risposto, però so tutto sui fumetti, fotoromanzi. E perché non parliamo dell'Intrepido, del modello? Perché guarda, abbiamo pochissimo tempo, io starei qui fino a stanotte, cioè fino a parlare di tutto questo, di Valentina Melaverde. Mio nonno aveva un'edicola, io dall'età di 6 anni passavo tutte le estati e leggevo tutto quello che c'era da leggere. Quindi Geppo, Poldo, Trottolino? Ah, ma come no? E tra l'altro leggevo anche le raccolte estive. Quindi già cose già lette ma rilette, perché comunque la rilettura è alla base. Nessuno, sai una cosa Anna Maria, nessuno dice mai sto leggendo Tolstoi. Tutti dicono sto rileggendo Tolstoi, ma sei 23 anni, come puoi rileggere Tolstoi? Ma senti, ma ora cosa fai? Perché penso, avendo passato la vita leggendo questi fumetti, non ti sarei fatta nessuna cultura, nessuna preparazione tecnica e professionale, quindi di che vivi? Di che vivo? Sì. Vendi vivo, vecchi fumetti. Vivo di altro, però comunque... racconto ancora, faccio un lavoro che mi piace, sono a contatto con la gente, perciò questo passato, questa storia dei libri, dei fumetti ti è stata utile? È un aperto, sì, molto. Va bene, molto, non indaghiamo oltre, grazie comunque Anna Maria. Un abbraccio. Ciao Angela. Eccomi. Ecco, hai sentito, il pubblico vuole Provolino, basta con i gialli svedesi, dovete fare una riedizione di Provolino, faccio il curatore io con Luca, anche facciamo fare un libro insieme. Va bene Tommaso, restiamo così. Io mi permetterei anche di suggerire alla nostra amica Anna Maria La Papera Odissea. Papera Odissea, beh, come... per conciliare il fumetto con i grandi classici, secondo me potrebbe essere un'ottima idea e uno fa anche un figurone. Ecco, io ho detto che tu lavori in Rizzoli, ma avrei dovuto dire che tu lavoravi in Rizzoli perché ti licenzieranno entro stasera dopo aver consegnato La Papera Odissea. Grazie Angela. Grazie a te, ciao. Ciao. Senti, hanno detto Papera Odissea, noi abbiamo litigato spesso su PK o Paperinik, perché tu difendi PK. Per me è PK e Paperinik. No, Paperinik è una cosa differente. No, Paperinik è un'altra cosa. Paperinik era il vendicatore, l'animo nero di Paperino, e io lo amavo quando scendeva giù con l'armadio nel suo rifugio segreto a mangiarsi i panini al prosciutto di nascosto. A me PK, che è stato sui grattacieli per fare il difensore di Paperopoli, non piace. So che a te piace invece. Sì, ma è un po' un reboot, come quando... Cos'è? come quando nei fumetti prendono un personaggio che è un po' invecchiato e lo azzerano e ricominciano da capo la serie. Con PK l'hanno fatto. Senti, io leggevo una cosa diversa da quello che allora abbiamo scherzato, abbiamo parlato di Provolino, adesso ci sono veramente alcuni momenti di vera cultura. In fondo parliamo di libri. C'è una grande poetessa, che è forse la mia preferita, che recita le sue stesse poesie. Vuoi ascoltarla con me? Ascoltiamo. Guardami, e il tuo sguardo assente mi allontana la mente. Gelido inverno, gelido sonno, il mio sguardo perso e io che ho bisogno di te. No grazie, no grazie, no grazie. Chiara, allora ti faccio una domanda. Chiara, Emily Dickinson o Flavia Vento? Più facile Flavia Vento. Flavia Vento, un inaspettato animo di poetessa. È stato veramente un bel momento, di la verità. Sì. Adesso però, veramente per farci perdonare di tutto quello che vi abbiamo detto e vi abbiamo fatto sentire, vi faccio sentire quello che per me è veramente il momento più bello di letteratura estiva. Se uno dice, mi dici quali sono le parole che racchiudono il senso dell'estate, il silenzio dell'estate, bene, le parole sono quelle e ve le recita la stessa persona che le ha scritte. Leggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo sulla veccia, spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi. E andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia come tutta la vita il suo travaglio in questo seguitare una moraglia che in cima cocci aguzzi di bottiglia. Beh, ora mi perdonerete, vi ho fatto sentire Montale che recita Montale. È stato un momento bello, no? Sì, mi ricordava la mia maturità, insomma. Ma come la maturità? No, basta. Quando sarai più grande, la maturità scompare, ti resterà soltanto la poesia, ti resterà soltanto Montale. Mi pento di averti invitato oggi qui, però ho sempre bisogno di un'antilabranca ogni tanto. Abbiamo finito, lo sai Luca? Ti dispiace? Sì, sei andato avanti a parlare di Provolino. Per tutta la vita. Allora voi invece parlatemi di Provolino sulla pagina Facebook della Bella Estate, oppure in segreteria telefonica, abbiamo anche una segreteria telefonica, 800 28 11 11, oppure labellaestate@radio24.it. Grazie a Luca Rossi. Grazie a te. Ma figurati, mai più nella vita. Grazie al mio regista Mauro De Angeli e alla mia redattrice preferita Viola Bottoni. Noi ci sentiamo domani. Ciao!